Zolt. Fulminati in azienda. Carissimi, è con grande piacere che apro questa riunione. Avete 5 minuti, usateli al meglio e andate al sodo. Prego, Font. Grazie, grazie Marco, grazie intanto della tua generosa disponibilità. Ha detto al sodo, Fonte, dai, non perdemo tempo. Comunque, tra l'altro, centrifuga, scusami, ma di che colore sei? Perché? Ascolta, giuro che se ti presenti ancora con quella faccia color grigio topo e quelle occhiaie blu notte, non ti faccio partecipare alla riunione. Ok, Marta, dicevamo? Ecco, appunto, a proposito di occhiaie, volevamo sottoporti una situazione che ci sembra degna di tua nota, cioè della tua attenzione. Sì. La vedi questa faccia di centrifuga? Alidaie. Sì, lo vedi? Sì. Questo sguardo languido? Sì, direi da cocker bastonato. Comunque andiamo ecco, al appunto, dunque. Lo vedi, ma senza voler additare nessuno che, come sai, non è nel nostro stile, ma c'è una situazione in azienda di cui vorremmo parlare. Sì, ma l'hai già detto, e quindi? Sì, però, e quindi? Ecco, da un'indagine di clima che abbiamo fatto negli ultimi 7 mesi, coinvolgendo il 99% della popolazione aziendale, praticamente tutti quelli a cui è stato sottoposto un questionario. Ecco, te la faccio breve. Bravo, io, Marco. Bravo. A gente gna fa più, gna fa, avemo ritmi del lavoro insostenibili, una pressione che ci ammazza, Marco. Così non si può andare avanti, no, soprattutto io non ce la faccio. No, non ho capito, ti stai lamentando? Sei qui per lamentarti? No, Marco, era solo per metterti a parte di un malessere diffuso, c'è un clima mesto, funereo in tutta l'azienda. La situazione è questa, dottore. Il 90% degli intervistati lamenta condizioni di lavoro stressanti, naturalmente, esclusi i presenti, troppe ore di lavoro, troppa pressione, impossibilità di conciliare vita lavorativa e vita privata. Oi, dead man, aprite bene le orecchie adesso, premesso che A, la pressione la decide il mercato, B, lo stress se lo conosci lo eviti, C, il lavoro viene prima di ogni altra cosa essendo la fonte di reddito grazie alla quale mantenete le vostre famiglie, dichiaro sciolta la seduta e la questione in oggetto rimandata. A quando? Quando? All'infinito! Sì, pronto? È pronto, sono tua moglie, ti ricordi? Ma certo, ciao Silvia, tutto bene? Sì, a parte tua madre che si è lamentata che non andiamo a trovarla da 6 mesi. Sì. E la tata che è dovuta partire improvvisamente per il Perù. Sì. E i bambini che non vanno bene a scuola, ho parlato ieri con le maestre. Ecco, sì, scusami Silvia, ma io sono al lavoro, quindi non... Sì, non hai tempo di ascoltarmi adesso, vero? E in effetti, se uno è al lavoro, non è che può stare al telefono. Immagino, tra l'altro, che vai a brevissimo una riunione improvvisa che hai convocato. Bravissima, in effetti è proprio così. Per gestire una delle tue urgenze. Esatto, beh esatto. E che non sai a che ora tornerai, giusto? Giusto. Ecco, allora, giusto per capirci, siccome A... è un mese che non ceni a casa la sera. B, i bambini oggi hanno chiamato papà il vicino di casa. C, mi son rotta di passare le serate a guardare la televisione. Sì. Se stasera non torni per cena, sei fuori per sempre. Silvia, Silvia. Carissimi colleghi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io vi ho convocato oggi per dirvi che ho veramente pensato alle cose che mi avete detto. Meno male, quali Marco in particolare? In effetti forse in questi ultimi anni abbiamo un po' esagerato, pressione, senso d'urgenza, forse abbiamo chiesto un po' troppo alle nostre persone, lo devo bravo, dire. Bravo, bravo, e quindi? E quindi vi nomino voi ufficialmente responsabili del progetto antistress, il primo progetto per riequilibrare la vita privata con la vita professionale. Ma è un'idea fantastica! In settimana cominceremo le riunioni. Ecco, naturalmente il progetto ha priorità assoluta. Entro domani voglio la lista delle attività. Domani? Ma come entro domani, scusa? Ho detto domani. Entro domani, centri. Non mi stressate e ricordatevi, tomorrow is now. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.